Buonasera a tutti, inizia alle 20 proprio puntuali oggi, 20 spaccate, Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì appunto dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21.30. Ricordo che la trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E ora andiamo all'ascolto di una band canadese, esattamente dalla zona di Toronto. Loro sono i Cursed, band che si è formata all'inizio degli anni 2000. Questo è il loro album, il secondo album, è uscito nel 2005, tant'è che si chiama Chu. È una band che comunque fino al 2013-2015 è esistita, poi non saprei dirvi in aggiunta. Comunque hanno fatto anche l'album Free Comunque noi dall'album Chu ci ascoltiamo alcuni brani. Thank you. bene, bene, un saluto. Saluto tutte e tutti voi che siete in ascolto anche per questa sera di giovedì 17 aprile. Vado subito a annunciarvi quale sarà, diciamo, i temi, quali saranno i temi della puntata di stasera negli interventi a voce. Allora, innanzitutto faremo un brevissimo, diciamo, un brevissimo spazio di appuntamenti e aggiornamenti sulle questioni che stiamo seguendo in queste ultime puntate. Poi, siccome sono da solo, ci sarà una cospicua parte di contributi dalla sezione, dalla redazione musicale, e nella seconda parte della puntata invece ci sarà l'intervento che è stato annunciato su un opuscolo che si intitola La guerra come operazione di polizia internazionale di Riccardo d'Este. È tutto qua, io direi che possiamo andare con ancora un po' di qualche brano e poi andiamo con gli annunci di attualità, eccetera. Allora, dicevamo di dare delle, diciamo, dei appuntamenti sul calendario, che ne abbiamo qualcuno da darvi. Premessa però che Una premessa sulla quale stavo rimuginando questi giorni, come sempre siamo in onda qui noi di Zardins Magnetics, in diretta il giovedì sera. Questo è uno spazio autogestito di alcune, diciamo, individualità che si sono raggruppate come Assemblea contro il carcere e la repressione, Assemblea permanente contro carcere e repressione del Friuli di Trieste, e abbiamo portato avanti questo, diciamo, impegno settimanale in questi anni, non come, diciamo, spazio di redattori che fanno volontariato a Radio Onde Furlane. Radio Onde Furlane ci ospita, l'abbiamo detto tante volte, perché storicamente da tanti tanti anni già il collettivo del centro sociale di Via Volturno, diciamo, aveva questo canale comunicativo, e poi nello sviluppo degli anni ha continuato a tenerlo, ed è uno spazio di presa di parola, no? Questo qua. Poi, naturalmente, gli anni passano, le tecnologie anche si modificano, e siamo presenti anche su altri canali. Resta il fatto, appunto, che siamo, diciamo, espressione di una spinta autonoma, ecco, a prendere la parola pubblicamente su certe cose con un certo, diciamo, taglio. Detto questa premessa, che a cui ci tenevo ribadirla, ecco gli appuntamenti. Partiamo con un'occasione che ci è stata fornita dalla Casa del Popolo di Gorizia, Liudski Dom Gorizia, che si trova in Piazzuta, Piazza Tommaseo di Gorizia, e che ha inserito nell'ambito della Settimana Rossa un intervento anche dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione, però questa è l'introduzione, il cappello che hanno inserito a questa locandina che trovate nei loro social. Ragionare sulla resistenza di ieri e di oggi senza alcun cedimento alle narrazioni delle istituzioni locali, per rivendicare tutto ciò che fu il movimento di liberazione in questa città, Gorizia, e che nel presente deve continuare a essere monito e motivazione. La Settimana Rossa è il frutto del lavoro di associazioni che intendono prolungare la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della liberazione dal 25 aprile al 2 maggio con eventi, attività e incontri sempre accompagnati da convivialità popolare. Divulghiamo, partecipiamo, resistiamo. Ecco, allora, tra le varie, diciamo, vari ospiti che ci saranno durante questa serie di appuntamenti che si svolgeranno in vari, diciamo, punti della città, ma prevalentemente, appunto, nella sede della Casa del Popolo, che è, come ho detto, in Piazza Tommaseo 7, Piazzuta, a Gorizia, ecco, 29 aprile, anche se manca una dozzina di giorni, 29 aprile, ore 20:30, incontro con l'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione del Friuli e Trieste, la lotta dei prigionieri e delle prigioniere è la nostra lotta. Quindi chi è il territorio, insomma, isontino, eccetera, ore 20:30 di 29 aprile, se non sbaglio è martedì 29 aprile, nell'ambito della Settimana Rossa 2025 organizzata dalla Casa del Popolo di Gorizia. dato che siamo in insomma in tema, sempre la stessa struttura, diciamo così, Casa del Popolo di Gorizia promuove per sabato 19 aprile, invece, che sarebbe insomma molto prossimo, sia per chi ci ascolta il giovedì sera sia per chi ci ascolta il venerdì, Gorizia 19 aprile ore 18, piazza Tommaseo 7, presentazione di Sionismo, cos'è e perché combatterlo, ed è uno dei quaderni di Antitesi è organizzazione comunista di cui abbiamo parlato varie volte, e insomma è una occasione per ribadire, approfondire la natura di classe del sionismo, la sua internità all'imperialismo internazionale, il suo ruolo strategico nel processo di guerra attuale. Si terrà questo incontro, come abbiamo già detto, alla Casa del Popolo, Gorizia, sempre 19 aprile ore 18, presentazione d'opuscolo, sionismo, cos'è e perché combatterlo. Dunque, l'ultimo appuntamento di cui vi torniamo a ricordare è per domenica 27 aprile, invece, qui a Udine alle ore 11, un incontro col collettivo studentesco SUMUD di Venezia, dove appunto il pretesto è questo opuscolo di cui parleremo nella seconda parte di Zardins Magnetics, O la guerra o la vita, ed sarà un incontro appunto per trovare un trait d'union, diciamo così, tra le lotte sui territori, chiaramente Venezia sul stabilimento di Tessera, qui in Friuli, Venezia Giulia sul stabilimento di Ronchi. Ne abbiamo già parlato e ne parleremo più tardi, ma tutto questo ci dà l'occasione per un aggiornamento invece sulle vicende di cui si parlava le scorse puntate, ovvero le udienze che, insomma, il procedimento giudiziario nel quale sono coinvolti tre palestinesi, diciamo, che si trovano in Italia, coinvolte appunto in questo processo da parte della magistratura italiana. Quindi mercoledì 16 aprile alla Corte d'Assise dell'Aquila si è svolta la seconda udienza di questo processo per Ali Irar, Mansour Dagmosh e Anan Yaesh. Questi sono tre palestinesi che devono difendersi dall'accusa di terrorismo ai sensi dell'articolo 270 bis, un presunto sostegno alla resistenza contro l'occupazione militare sionista a Tul Karem in Cisgiordania. Dunque, l'aggiornamento riguarda il fatto che appunto mercoledì vado a leggervi, non ho trovato di meglio che questo. Il processo contro Ali, Anan e Mansour non è un processo contro tre cittadini palestinesi, ma contro l'esercizio del diritto all'autodeterminazione di un popolo contro una forza occupante che non può essere ridotto a terrorismo, sostiene il comitato Free Anan, aggiungendo che le decisioni prese durante la prima udienza compromettono profondamente il diritto alla difesa e a un processo equo, richiamando scenari di giustizia sommaria. Il fatto più grave per quanto riguarda l'udienza del 2 aprile è sicuramente la riammissione di 15 interrogatori a prigionieri palestinesi da parte della polizia e dei servizi segreti israeliani, lo Shin Bet. interrogatori fatti da Israele nelle carceri, che sono stati condotti in assenza di un avvocato e con annesse torture e sevizie. Come fanno a essere prove all'interno di un processo? Aveva dichiarato a fine udienza il 2 aprile l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Legittimare gli interrogatori significa legittimare l'occupazione sionista, i crimini di guerra commessi da Israele e il trattamento degli interrogati e prigionieri, denunciato a più volte, a più riprese da Amnesty, vabbè, e varie associazioni, diciamo così. Lo scorso febbraio lo stesso giudice aveva ritenuto inammissibili gli stessi interrogatori. La stessa Corte d'Appello dell'Aquila nel 2024 aveva rifiutato l'estradizione di Annan in Israele perché lo considerava a rischio tortura. Ecco, quindi ci sono state rilasciate da Annan ulteriori dichiarazioni in aula, e naturalmente anche il suo difensore ha depositato una serie di insomma di eccezioni, ecco, che dovranno essere prese in considerazione dal giudice. A questo punto mandiamo anche un importante contributo che ci è arrivato da Suad, ex prigioniera palestinese, che ha voluto così, insomma, ascolterete, si parla ancora di prigionieri palestinesi. Sono ex prigioniera, è il 17 aprile, la giornata internazionale di solidarietà con i prigionieri palestinesi. Oggi ci sono almeno 10.000 prigionieri, forse di più. Tanti sono minorenni, almeno 300, alcuni sotto 16 anni di età. Tanti detenuti amministrativi, almeno 500 o di più. Questi amministrativi detenuti senza un processo, una pratica militare illegale contro il diritto internazionale. Il 17 aprile, una giornata di speranza, una giornata di Sumud, resistenza, resilienza, libertà e dignità. Una giornata di solidarietà internazionale con il popolo palestinese, che siamo tutti palestinesi, come oggi siamo prigionieri. Sono ex prigioniera. We'll be right back. E intanto a raffica stanno andando questi Pierce Christ, band australiana di Melbourne, da un loro album datato 2006, appunto dico a raffica perché non hanno nemmeno un secondo di pausa. Comunque l'album è Nothing Has Changed. Allora, andiamo ad affrontare il tema che ci siamo proposti di sviluppare questa sera. Zardins Magnetics è un, come dicevo prima, in realtà appunto questo opuscolo di Riccardo d'Este, che è stato ripubblicato, ristampato dal collettivo Terre e Libertà di Rovereto, ma in dialogo, diciamo così, con O la guerra o la vita, è il breve dossier sullo stabilimento della Leonardo S.p.A. Tessera, Comune di Venezia, che lo ha steso, ecco, questo collettivo studentesco Sumud che andremo a conoscere domenica 27 aprile qui a Udine allo spazio autogestito di Via De Rubeis, perché in dialogo, ma perché già l'operazione fatta dal collettivo Terre Libertà è abbastanza, è una operazione possiamo dire di diciamo interpretativa, ecco, di questo opuscolo, con un taglio molto preciso, cioè si va a sia, cioè l'opuscolo è fatto così, ci sono una pagina e mezza introduttiva di testimonianza diretta della conoscenza di Riccardo d'Este, e poi a cornice, in chiusura, così diciamo, dell'opuscolo, c'è una postfazione sul Far della Sera, dove si fanno i conti in sostanza con, cioè, o meglio, si fa un bilancio positivo, in positivo, tra la la prospettiva offerta da questo testo scritto a ridosso appunto della prima guerra del Golfo, Saddam Hussein, invasione del Kuwait, eccetera, e si fa un paragone con 10 anni dopo l'interpretazione, ecco, diciamo così, offerta invece dagli ex operaisti italiani, Toni Negri e compagnia, con, che uscirono con quel librone illeggibile Impero. Boh, quindi questo è un paio di maniche. Se vi interessa, ecco, come ho detto prima, c'è questa postfazione sul Far della Sera, però c'è anche da dire che possiamo leggerla anche questa decisione di ripubblicare la guerra come operazione di polizia internazionale come una specie di seconda parte dell'opuscolo La Tempesta, se vogliamo, anche, ecco, siamo su, in quella zona lì, ecco, da quelle parti lì, un'analisi appunto del svolgimento dei fatti recenti da un certo punto di vista, che è quello appunto della critica dello Stato, critica dell'autorità, eccetera eccetera. Noi vogliamo invece stasera partire da quell'approccio che avevamo tentato noi qui a Zarnis Magnetics più volte su Riccardo d'Este, a parte che, detto aperta e chiusa parentesi, potremmo, volendo anche noi, rievocare delle conoscenze dirette di Riccardo d'Este, no? Fatte appunto in quegli anni, c'è stato appunto chi è stato suo ospite, per così dire, a Torino, eccetera. Ma chiusa parentesi, comunque non era per vantarsi, il tentativo per che dicevamo noi di avvicinamento a Riccardo d'Este che avevamo provato a fare dopo l'uscita del libro Nautilus sul comontismo è continuare appunto a riprendere in mano un po' quel discorso là, cioè cosa succede a Riccardo d'Este, insomma, tante cose, ma nello specifico, dopo aver partecipato a questo che si chiamava questo gruppo politico che si chiamava LUD, che era di base, era in via Balbi, sede della Facoltà di Lettere di Genova, prima del 68, insomma, che appunto ha dato origine un progetto di rivista, eccetera, e varie altre cose. Appunto scoppia il 68, ma soprattutto il 69 italiano, l'autunno caldo. Nel frattempo LUD si è concluso, appunto il giudizio di Riccardo d'Este era appunto, e di altri che poi andranno a formare comontismo, LUD era un progetto troppo politico, fra virgolette, cioè era un qualcosa di troppo classico, tradizionale, di far solo parole, pensieri, analisi sulla realtà senza mettersi in gioco direttamente con la vita. Parallelamente, appunto, perché cosa era successo? Riccardo aveva avuto un'esperienza diretta del carcere per possesso sostanze e altre cose, insomma una serie di sommarsi di questioni, e quindi era passato al carcere delle Nuove a Torino, e nel frattempo 1969 scoppia una grossa rivolta alle Nuove e lui ci partecipa e rimane colpito dal protagonismo del proletariato prigioniero, come si diceva in quel momento, e c'è proprio un'esaltazione e si vede appunto come senza tanti discorsi questi prigionieri passano all'azione, spaccano tutto, insomma tutte quelle strutture che li ingabbiano. Quindi appunto la critica radicale, famosa critica radicale, va a applicarsi proprio alle forme aggregative e organizzative, cioè nel senso proprio anche ai gruppi di militanti, anche alla militanza stessa, no? Le cose che dicevamo in quelle puntate là sul comontismo e su LUD. E, tra l'altro, comontismo, l'abbiamo detto, comontismo è una parola inventata, è un tentativo di tradurre il concetto di Karl Marx di Gemeinwesen, che letteralmente significa comunità di essenza o di esseri, che era contrapposto da Marx alla Gemeinschaft, che è, tradotto in italiano, significa società, ma letteralmente appunto è comunità di beni. Sostanzialmente era la società comunista contrapposta alla società intesa, diciamo, presente, ovvero a direzione borghese, no? Quella ottocentesca. Ancora prima della pausa musicale volevo dire questo. Quindi la critica delle forme aggregative mi ha fatto venire in mente, a me invece, non a Riccardo d'Este, a me, un passaggio anche di Stirner, nell'Unico. Stirner, appunto, anche Stirner evoca in qualche maniera la carcerazione, non solo, anche addirittura questa idea di Gesellschaft come qualcosa di imposto da fuori, dall'esterno. E lui, invece di contrapporre a Gesellschaft Gemeinwesen, ovvero società comunista, lui a Gesellschaft semplicemente spacca la parola anche lui e insomma dice in qualche maniera, secondo me Gesellschaft deriva da Saal, ovvero da sala, cioè uno spazio racchiuso di persone senza rapporti. Di solito è così, la società come la viviamo noi, come la conosciamo oggi, è sempre tendenzialmente uno spazio, cioè deve esserci uno spazio, ecco, una situazione, una dimensione spaziale dove appunto vengono buttati lì dei soggetti, diciamo così, degli individui, ma che persone anche, ma che non hanno rapporti se non quelli esteriori, che possono essere i soliti appunto di questa società, che sono o lavorativi o, diciamo, fra virgolette, amicali, casuali, o di altro genere, sempre insomma derivante da istituzioni in qualche maniera tramandate da chi veniva prima di noi, che erano sempre società di un certo tipo, e quindi sono di solito spazi racchiusi di persone senza rapporti, senza commercium, no? E nel caso specifico del carcere, diceva Max Stirner, i rapporti sono proprio quelli che permettono, sono quelle spinte, dico io con le mie parole, sono quelle spinte genuine, ecco, che tendono alla dissoluzione del trovarsi coatti, cioè del trovarsi in carcere, e proprio alla fine, cioè tendono alla fine, alla distruzione della detenzione, non hanno altri motivi. E questo mi sembrava, ecco, una prosecuzione di quello che aveva provato Riccardo d'Este, insomma questa sua esperienza importante che aveva avuto durante la rivolta delle nuove nel 69, e che lo ha portato insomma a una svolta decisiva nel suo percorso. We'll be right back. or wanted, or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete? And there's nothing in hell will let you do about it. So it's good food. Make a good meal. Going in the cold like a piece of trash. To leave. Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good food. Make a good meal. How does it feel to be shit out of life? Interrupt, but it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind-melting chemicals. Till even the outside world looks great. High-tech science research labs. It costs too much to bury all the dead. The mutilated disease. Surplus rats who can't be used anymore, so they're dumped. With no minister present in a spiraling corkscrew disposal unit, ground in the stew and flushed away on chain. Get a dignified cremation. Yet, 6 o'clock tomorrow morning, it's time to get up. Ecco, tra l'altro, continuiamo questa linea, questo legame tra interno ed esterno, cioè tra spazio, come dire, soggettivo e spazio esteso, tra spazio esteriore, non solo anche tra repressione interna dello Stato e conflitti tra gli Stati, meglio, ma questo andremo a vederlo, insomma, ma prima. Ancora sul carcere, quindi sullo spazio recluso, il 15 aprile è uscito un intervento molto così esteso di Stecco, ne è stato fatto un opuscolo che si intitola Fino a che di una sola prigione rimarrà una sola pietra, dice questo brano che lo presenta, che è tratto da, insomma, da questo testo. Dice, insomma, dice il rovescio, è anche un appello a proseguire la discussione da parte del compagno. Ritengo valido il progetto del sindacato detenuti perché nasce da dentro le mura, e anche se ho le mie criticità e perplessità, trovo giusto comunicarne l'esistenza, spiegarne gli intenti, l'utilità e la genesi. Il sindacato offre anche la possibilità di portare e diffondere le proprie critiche e altri metodi di lotta. Tutti i punti deboli o confusi del progetto possono essere dipanati nel corso del lavoro di chi l'ha fondato. Ai compagni e compagne che guardano di sbieco questo progetto, a tutti e tutte quelli che mi hanno scritto e rafforzato con parole e osservazioni, a cui mando un sincero ringraziamento, di cui ho spesso condiviso le criticità espresse, lancio il mio invito a pubblicare insieme a questo testo le loro idee, in modo da accrescere proposte e riflessioni, e quindi un lavoro rivoluzionario, che siano utili alla continuazione e al miglioramento della lotta, non per osservare chi è più o meno radicale nelle posizioni, ma per stracciare i margini dei nostri limiti e dare una nuova linfa per una lotta che distrugga ogni galera e gabbia. Ecco, quindi, come c'è appunto questo frammento che vi dicevo, dall'unico e la sua proprietà, ecco, dove i rapporti dentro le carceri tra la popolazione detenuta, tra le persone detenute, tendono alla dissoluzione del loro essere coatti alla fine della detenzione comune, pienamente in linea con questo appello che fa Stecco. Andiamo a ritroso, torniamo a Riccardo d'Este. E dopo l'esperienza di comuntismo ci sono stati altri, sono passate altre così, sono, insomma, è continuata la sua vicenda, ed è continuato a intervenire, arriviamo appunto a questi, all'inizio degli anni 90. Ah no, beh, chiaro, c'è stata anche una abbastanza lunga detenzione, ci sono state latitanze varie, insomma, adesso non ritorniamo sulla biografia di Riccardo d'Este, ecco, per delinearvi il personaggio. Ma nel marzo 91 esce, sì, c'è scritto, sì, Nautilus 1991, insieme ad altri contributi. Questo si intitolava La guerra e il suo rovescio, e poi è stato ristampato nel 2013 da Edizioni Anarchismo, naturalmente. Però appunto qui viene scelto di ripubblicarlo in solitaria, diciamo così, per dare più enfasi al fatto che in questo testo Riccardo d'Este ha un'intuizione, ovvero l'intuizione è quella appunto di prendere sul serio e andare fino in fondo con la dicitura la guerra come operazione di polizia internazionale. Allora, sì, diciamo così, ecco, vale la pena di leggerlo quel testo. Io adesso non vi faccio il riassunto, però le cose più importanti sono queste, ecco, secondo me, cioè quelle che a me hanno più colpito. Il fatto che appunto viene preso sul serio questa formulazione, perché tra l'altro questo non è una cosa ovvia, ma quando, quando la, il potere dice qualcosa, ovviamente naturalmente è naturalmente una menzogna, no? Ci hanno insegnato, il potere ci racconta menzogne, falsità, ma queste, questa menzogna però non è, non è che noi la possiamo prendere come ribaltarla così il contrario è la verità, non funziona così. Questa falsità ha un suo effetto, no? Non è che una volta che sappiamo che è falsa è uguale a zero, no. Continua a diciamo funzionare in qualche maniera. Allora, la guerra come operazione di polizia internazionale in quel momento, nel 1991, io per esempio, chi vi parla c'era, e mi ricordo questa cosa che si calcava tanto sul discorso: è la guerra, è la guerra, è una questione di naturalmente Golfo Persico, Kuwait, quindi era una questione di petrolio, c'era la questione del petrolio. Poi che loro l'avessero, loro, cioè questi di potere, l'avessero mascherata come operazione di polizia, appunto si intendeva una maschera, tu togli la maschera e dietro c'è il petrolio. Riccardo dice: attenzione, se noi andiamo avanti ci perdiamo, se noi andiamo avanti così togliendo la maschera troviamo, diciamo, la realtà economicista, no? La realtà come realtà economica, cioè che si riduce a economia, no? Tutto il mondo come economia, ci perdiamo un passaggio epocale, perché insieme al fatto che sicuramente quella guerra lì è stato un massacro, è stato una guerra, non un'operazione di polizia, è stata anche un'operazione di polizia. Allora, quella menzogna lì conteneva, non può non contenere, la menzogna non può contenere una parte di realtà. Insieme alla menzogna, insomma, viaggiava questo contenuto di verità, che era effettivamente lì si svolgeva un'operazione di polizia. Perché? Perché dobbiamo trovare il criterio adesso. Con che criterio noi diciamo che quello lì non è una guerra simmetrica tra due schieramenti, ma una situazione dove arrivano appunto gente con l'autorità di massacrare e altri ad altri questa autorità non è riconosciuta, no? Dobbiamo individuare gli obiettivi e le finalità di quell'intervento lì. Quali erano gli obiettivi e le finalità? Nient'altro che questi, cioè ci si trovava davanti a questo in schema, cioè c'era un capetto che alla fine, un capetto di questi tanti capi sparsi per il pianeta, che a un certo punto alzava le sue pretese senza avvisare prima i superiori. Voleva fare lui il prezzo, diciamo lì, no? E senza, dimenticandosi che doveva avvisare prima i superiori, ovvero aveva la pretesa appunto di invadere il Kuwait, no? questo dittatore dell'Iraq, Saddam Hussein, e a quel punto lì, diciamo, su iniziativa di quello che era lo Stato, in maniera indiscussa aveva il predominio militare a livello planetario e ancora oggi, che erano gli Stati Uniti, su iniziativa di questi che appunto si sono presi questo ruolo di polizia planetaria, su iniziativa degli Stati Uniti si andava a intervenire contro questo che aveva sgarrato. Ed è una tipica situazione di polizia questa, no? Con diciamo presupposti estremamente vaghi, praticamente indefinibili, perché non si sa, non è che esistono delle leggi su cui tutti sono d'accordo, tutti, cioè ognuno è d'accordo su quelle leggi, condivide, no, ci sono delle, quelle che sono appunto gli stati egemonici in quel momento quel momento erano insomma quelli che sono ancora adesso, più o meno, sono aggiunti altri nel frattempo, ma più o meno erano gli stati egemonici che imponevano un che avevano incaricato la polizia mondiale, gli Stati Uniti d'America e le loro forze armate di massacrare questo qua che non stava alle regole come le intendevano loro. Poi appunto ci sono stati tutta una serie, viene affrontato tutta una serie di possibili obiezioni a questa tesi, per esempio fatto che l'Iraq aveva non solo alzato le pretese, ma poteva essere una minaccia per Israele già in quel momento là, ma lo stato appunto di Israele, ma facilmente si poteva rispondere, ancora adesso vale ancora questa risposta, nel fatto che lì in quel momento là si era formata la famosa coalizione internazionale, alla quale appunto anche la Siria di Assad e l'Egitto di Mubarak erano pienamente dentro quella coalizione lì, quindi Israele non era assolutamente sotto minacce dell'Iraq, semmai appunto questi paesi fra virgolette nemici di Israele erano in quel momento lì di fatto alleati, quindi il discorso appunto si riduce molto. Non solo, appunto, sotto la luce di questa lettura economicista il discorso, ma l'operazione di polizia internazionale è la maschera, dietro c'è il petrolio. Continuando sotto questa luce qua, cercando di analizzare quel conflitto, è evidente che diventa o demenziale o incomprensibile, ecco, questo che è successo. Dunque, la tesi riassuntiva adesso di questo emergere del governo mondiale, il governo planetario, è come appunto abbiamo già detto, c'è uno status quo, questo status quo va mantenuto a tutti i costi, qualunque costo. Chiunque si permette di derogare a livello locale o in tempo transitorio deve patteggiare prima e farsi autorizzare di questa deroga dallo Stato, appunto quello supremo di tutti gli stati più potenti. E quindi arriviamo a quella citazione che abbiamo messo in promozione, che era appunto l'utopia del capitale, appunto questo carattere utopico del capitale, per cui tende anche a diventare, a oltrepassare i confini del tempo, a eternizzarsi, sostituirsi alla natura stessa, cioè a ciò che è esistente, duplicarlo e diventare a sua volta una nuova natura, il capitale. Quindi raggiunge anno 1991 il suo punto più alto, secondo Riccardo d'Este, l'utopia del capitale, un ordine in sé per sé, sussuma e regola l'esistenza di uomini, l'esistenza della natura, cioè l'esistenza del vivente, e l'esistenza anche l'esistenza dell'economia, quindi è l'ordine, il principio di autorità, diciamo così, che viene a sovrastare in qualche maniera l'ordine nella forma stato nazionale o sovranazionale. È l'ordine a imporre il mercato, a stabilire il valore, a determinare le regole dello scambio, fondandosi sempre più sull'immaterialità dei beni e sullo spettacolo dei bisogni. Ecco, c'è condensata in due pagine un'analisi insomma dell'utopia capitalista, sulla scorta possiamo dire anche di Cesarano, e insomma le conclusioni sono queste, ecco, che sono stati sempre più autoritari, o stato planetario sempre più autoritari diventano. Questi stati esprimono il senso del capitale. Cosa vuol dire? La sua volontà, il suo interesse, il suo senso, il senso della sua esistenza, ecco. E infine sono gestiti, ovvero amministrati, anche nella forma, perché no, democratica, perché appunto dice è sicuramente la forma di gestione più propria del capitale, né peraltro esclude la barbarie o la compresenza di regimi dispotici, purché inseriti nell'ordine mondiale a esso allineati. Il principio appunto è che non si sgarri dall'ordine mondiale, ecco. Non è una questione di ma bisogna avere certe caratteristiche di rispetto dei diritti, eccetera eccetera. Questo qui sono chiacchiere. In realtà appunto uno stato, come mettiamo adesso sulla scorta dell'attualità di adesso 2025, buttiamola là, l'Ungheria è evidentemente uno stato dispotico, non democratico, eppure è tranquillamente accolto con rapporti diplomatici, con alleanze militari e quant'altro. Ecco, io direi che tanto che parlo, ma ho anche quasi concluso, faremo ancora un intervento dopo la stacco musicale su, come dicevo prima, sull'opuscolo O la guerra o la vita. Let's protect it while we can. That's all there is, and there ain't no more. Molto breve questo stacco musicale, ma d'altra parte siamo anche quasi, insomma, verso la conclusione della puntata di Zarnis Magnetics di stasera, giovedì 17 aprile. Dicevo che dopo, appunto, guardiamo adesso dal prisma di la guerra come operazione di polizia internazionale, guardiamo a Questo invece è opuscolo dell'ottobre 24, O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento Leonardo S.P.A. Tessera, a cura del collettivo Sumud di Venezia. Lo ripeto, saranno nostri ospiti alcuni di questo, alcuni compagni di questo collettivo allo spazio autogestito in via De Rubeis a Udine domenica 27 aprile alle ore 11, dove appunto andremo a presentare questo opuscolo. Partendo da questo opuscolo vorremmo provare a costruire così un parallelo con le lotte di due territori. Allora, è chiaro che insomma chi vi parla, detto così, insomma, è di un'altra generazione rispetto a chi ha scritto questo opuscolo. Non è assolutamente né un giudizio né una critica, è per darvi l'idea, è un opuscolo molto scritto, sì, alla garibaldina, non so come dire, al volo. Io ecco perché qualcuno mi ha chiesto giorni fa: ma cosa hanno scritto, o la guerra alla vita? Ho risposto: è un dossier molto dettagliato, molto molto preparati, eccetera. E in realtà io mi ero confuso con un altro opuscolo, sempre su Tessera. In realtà, ripeto, non è una critica, ma è un opuscolo che è un trampolino, diciamo, voleva essere secondo me un trampolino di lancio per lotte, diciamo, di strada, cioè, o meglio, per sviluppo, per aprire altri conflitti, altre lotte importanti. Credo che sia l'esito di una campada della facoltà del dipartimento, non so cosa, del, come si chiama, c'è scritto, scusate un momento, San Sebastiano Dipartimento di Lettere di Venezia. È stata fatta appunto anche lì oltre 50 giorni di accampada, circa, insomma, da metà maggio a inizio luglio 24, in solidarietà, come altre università italiane, al popolo palestinese. Ecco, hanno un po' condensato tutte queste loro ricerche su questo opuscolo, ma è importante appunto perché ha questo taglio che parte dalla forza motrice della logica di guerra. Loro percepiscono questa spinta che per loro è evidente, del applicare la logica di guerra su ogni aspetto della vita collettiva, che non solo appunto militare, anche quella cosiddetta civile. Allora, questa, loro hanno sbattuto la testa su un grosso stabilimento che si trova vicino al luogo dove studiano, al luogo di studio, ovvero appunto, dicevo prima, Tessera, questo grosso stabilimento dove si ristrutturano tra l'altro elicotteri da guerra e altri velivoli. Cosa vuol dire? Non solo si producono appunto elicotteri da guerra nuovi, ma anche si ristrutturano, ci sono progetti appunto, contratti della Leonardo, che prevedono di aggiornamenti, diciamo, di mezzi datati con sistemi tecnologici e cibernetici. E questo appunto è un aspetto che loro chiamano la guerra intelligente, fra virgolette, alla vita, al vivente. Venezia è sede anche di una fondazione che si chiama Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, e qua appunto è il paradosso, nonché il colmo dei colmi, si sa che appunto l'abbiamo sentito anche noi, abbiamo avuto ospite circa un anno fa qui a Udine Abbiamo, insomma, c'è stato spiegato che Venezia è un esperimento a cielo aperto per la gestione cibernetica dei flussi di persone. Ci sono sia i ticket d'ingresso sia appunto la videosorveglianza a livelli, sì, la presenza della smart control room, eccetera eccetera. Non solo, c'è ecco appunto questa percezione di una guerra, della guerra come un orizzonte non teorico ma molto concreto, molto vicino a noi. Ci risuonano le parole, appunto, l'esperienza di Riccardo Desta, appunto, quando finì in galera, dove vide la concretezza del ribellarsi, del rompere appunto le gabbie. Allora appunto opporsi alla guerra diventa una prospettiva di conservazione della vita, e diventa appunto andare alla ricerca, andare alla messa a fuoco più che alla ricerca di una disposizione che loro chiamano disposizione all'essere non disposti, cioè all'indisposizione nei confronti della guerra. E quindi sul territorio la presenza di uno stabilimento come quello di Tessera nel territorio loro di studio impone una riflessione su come vogliamo vivere in rapporto con la guerra. Quindi, cioè, ci costringe a prendere posizione, a prendere a determinare, insomma, a dire quello che si vuole, come vogliamo vivere, lo scrivono così, in maniera molto schematica ma molto chiara, ecco, devo dire questo, quello che volevo dire all'inizio, ecco, quando ho detto si sente che sono ragazzi ma studenti, insomma, io non sono più uno studente, voglio dirvi, ma era questo, insomma, è genuino l'opuscolo e merita appunto, secondo me, di essere ascoltato, di essere preso sul serio, come se fosse appunto l'opuscolo di Riccardo Desta, secondo me. Non ha niente ecco, da invidiare. Ecco, io credo che siamo in momento di dare la linea all'altra parte del vetro. Io vi saluto intanto e do appuntamento ai prossimi puntati di Zardis Magnetics. Bene, sfumiamo un po' di Dead Kennedys, credo che chiunque li abbia riconosciuti, band storica statunitense dalla California, San Francisco. E questo, i brani che noi abbiamo ascoltato erano tutti estrapolati, anzi lo sono ancora, dall'album datato 1985, Frankenchrist. E poi insomma adesso siamo anche al termine della trasmissione, ma volevo anche dirvi che prima, durante l'intervento, abbiamo ascoltato in sottofondo una band veneta, i Lago Morto. Bene, ah sì, Lago Morto, unico loro album, uscito nel 2010. Ora siamo al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30, anche oggi 17 aprile 2025. Ricordo che la trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come di consueto vi elenco i nostri contatti, ovvero se volete scriverci tramite posta elettronica basta farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo e intestando in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto anche questa, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Ricordo anche che questa puntata di Zardins Magnetics, ma anche quella anzi quelle delle volte scorse, le potete andare a riascoltare nel blog, in rete, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, siamo al termine, ci lasciamo con l'ascolto di alcuni, anzi no di alcuni, di un brano, forse due, di una band anarcho-punk storica che sono i Rudimentary Penny, dal loro primo album datato 1983 che si chiamava Death Church. E vi saluto tutti al prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolta il venerdì mattina e il venerdì pomeriggio sulle radio web radio, ovvero Radio Eustachio dalle ore 11 e poi Radiazione dalle ore 17. Siamo ovviamente in replica, salutiamo anche loro, anche se noi abbiamo tanto così propagandato l'orario nostro della diretta dalle ore 20 alle ore 21:30. Bene, ciao a tutti e vi lasciamo con i Rudimentary Penny.